Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Allarme crescita della Confindustria, produzione ferma negli ultimi 8 mesi e l'Italia scivola dal quinto al settimo posto tra i paesi manifatturieri. Liberato l'ex terrorista Battisti, il rammarico dell'Italia, Napolitano lesi i rapporti di amicizia col Brasile, Frattini annuncia ricorso all'AIA. Assicurazioni private e tariffe RC Auto ancora in aumento, lo denuncia l'ISVAP. Calcio scommesse, il governo studia misure di contrasto a Radio 24, i concessionari legali dicono il vero problema sono i gestori non autorizzati. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Giornata politica dunque caratterizzata dal caso Battisti, liberato dal Brasile, con le massime autorità dell'Italia che si muovono per reagire a questa decisione che viene giudicata negativamente dal nostro paese. Ne parleremo approfonditamente tra poco. Prima però i dati economici della giornata sono quelli di Confindustria, molto importanti perché vedono un allarme sulla produzione italiana che è ferma negli ultimi 8 mesi e l'Italia scala anche in basso le classifiche dei paesi manifatturieri. E allora facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Sì, la ripresa è lenta, la produzione industriale è quasi ferma, un quadro decisamente negativo, quello tracciato nel rapporto di Confindustria. La fase di recupero dopo la crisi economica ha frenato dopo il primo semestre 2010. La produzione resta dunque ai livelli dell'estate dello scorso anno, con un più 0,1 di crescita media mensile da luglio 2010 a marzo 2011. Viale dell'Astronomia parla di un paese schiacciato tra recessione violenta e ripresa lenta, scivolato nella classifica dei paesi manifatturieri dalla quinta alla settima posizione dopo India e Corea del Sud, dati che la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha commentato così, sentiamo la sua voce. I dati evidenziano che appunto noi stiamo uscendo dalla crisi con meno bene, diciamo, gli altri paesi. Noi siamo ancora a livello di produzione industriale meno 17% rispetto ai picchi del 2008, la Germania per esempio è meno 4%. Però quello che noi oggi vogliamo dire è che bisogna avere grande attenzione al sistema manufatturiero in Italia, aiutarlo a essere più competitivo, quindi il tema delle tasse, il tema delle semplificazioni, il tema delle liberalizzazioni, i temi sui quali noi richiamiamo continuamente sono fondamentali. E il numero uno degli industriali ha parlato anche di referendum, con una vittoria di sì ai quesiti sull'acqua ha detto torneremo indietro di 20 anni, ci sarebbe minore possibilità di crescita. Un riferimento anche a Fiat e alla possibile uscita da Confindustria non ci risulta, sia questione di ore, mentre sui contratti dice a giorni chiameremo i sindacati per discutere insieme una proposta sulla rappresentanza e sulla cosiddetta esigibilità dei contratti. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E a proposito di economia piatta, c'è una vicenda di cui abbiamo abbondantemente parlato negli ultimi mesi, è quella della chimica, con le proteste dei lavoratori della Vinils che si erano rinchiusi nell'Asinara e avevano occupato l'isola carcere per 15 mesi, occupazione che è finita ieri. Allora siamo andati a sentire perché questa decisione, abbiamo sentito Emanuele Manca, uno dei lavoratori che ha occupato per 15 mesi l'isola dell'Asinara. A dicembre il ministro Romani è venuto all'Asinara, è venuto al produttore, si è parlato con il mondo intero, in Sardegna, dicendo che è fatta. A gennaio ci ha riconvocato il ministero, a posto, gli ha lasciato 3 date per riavviare gli impianti, per tornare al lavoro. Infatti io gli dissi in quel caso, guardi ministro, seppur lei è un eccellente esponente del governo, per me che sono un tecnico, l'impianto è in marcia quando è in marcia realmente. Bisogna vigilare ancora con più attenzione affinché questa trattativa non fallisca proprio sul traguardo. E infatti puntualmente si è rivelata così la cosa. Lui mi guardò come un marziano il giorno. Purtroppo è andata così. Quindi è un fallimento della politica italiana, è un fallimento di questo governo, perché non si è trovata una soluzione industriale al problema della Vinils e non si è trovata una soluzione industriale al problema della chimica italiana. Quindi è un po' un fallimento loro. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Così dunque la vicenda dell'Asinara. È indietro di 20 anni, sarebbe un ritorno indietro di 20 anni il sì al referendum dell'acqua, ha detto Emma Marcegaglia. Abbiamo sentito poco fa l'allarme di Confindustria sulla crescita, e invece su un altro referendum è intervenuto oggi il Papa. A proposito del nucleare, la tragedia di Fukushima ha detto induca una riflessione, si adottino energie appropriate che salvaguardino il patrimonio della creazione e siano senza pericoli per l'uomo. Così Benedetto XVI durante la presentazione dei nuovi ambasciatori alla Santa Sede. E ora invece, come detto, il caso Battisti che scuote l'Italia. Cominciamo subito dalle reazioni dopo la decisione del Brasile di liberare l'ex terrorista Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Una decisione che lede gli accordi di amicizia tra i due paesi e che va contro le ragioni della lotta al terrorismo condotta in Italia. Questo è il primo commento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Quirinale deplora quanto stabilito dai giudici brasiliani ed esprime solidarietà ai familiari delle vittime dei delitti commessi da Battisti. Ed ancora, il Capo dello Stato appoggia pienamente ogni passo che l'Italia vorrà compiere a livello internazionale. Di profonda delusione e tristezza parla il Presidente del Senato Schifani, sconcerto ed amarezza per quello della Camera Fini. Il Governo poi, la partita non finisce qui, annuncia il ministro degli esteri Frattini, continueremo la nostra azione, dice il presidente del Consiglio Berlusconi, dal Popolo della Libertà le parole del vicepresidente dei deputati Corsaro. Sentiamo. Credo che sia vergognosa la scelta che è stata stabilita dal Supremo Tribunale brasiliano, vergognosa perché manca di rispetto nei confronti dell'autonomia giurisdizionale italiana. È una presa di coscienza che si apre un vulnus con il Brasile. E per una volta l'indignazione del fronte politico è trasversale, di insulto al popolo italiano parla Cesa dall'UDC, mi sento offesa sia come familiare di vittima del terrorismo che come cittadina italiana, aggiunge la deputata del PD Olga D'Antona, così Di Pietro, sentiamo. È una decisione oggettivamente in favore del terrorismo e quindi oggi molti terroristi sanno che andando in Brasile avranno un punto di ritrovo e di tutela e questo mi pare che non sia oggettivamente accettabile in una società moderna. Queste dunque le reazioni del mondo politico, è tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta, e allora facciamo un passo indietro e sentiamo come si è arrivati all'ultima decisione in Brasile di liberare Battisti. La politica nazionale ha prevalso sul diritto, così il ministro Frattini spiega la decisione del Tribunale Federale Supremo. La Corte ha prima respinto il ricorso dell'Italia nei confronti della decisione dell'ex presidente Lula di negare l'estradizione e ha poi stabilito che Lula, con il suo atto, non ha violato il trattato di estradizione in vigore con l'Italia. 6 voti a favore, 3 i contrari. Ecco perché la scarcerazione è arrivata subito. Non c'erano più ostacoli alla liberazione di Cesare Battisti. L'ex terrorista atteso nel carcere di Papuda questa sentenza per oltre 4 anni. La sua latitanza, più che ventennale, spesa tra Francia e America Latina, finì nel 2007. Per la giustizia italiana deve scontare 4 ergastoli, uno per ogni omicidio per il quale è stato condannato in contumacia. Fatti di sangue avvenuti negli anni 70. Battisti, però, che non ha rinnegato il suo passato da terrorista russo, si è sempre detto innocente di fronte a quei delitti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque il ministro degli esteri Frattini annuncia l'Italia farà un ricorso all'AIA per affermare che nessun paese democratico del mondo come il Brasile può proteggere o tollerare che un terrorista sia liberato. Allora noi siamo andati a sentire da un professore di diritto internazionale della LUIS, Natalino Ronzitti, se questa o altre sono vie percorribili da parte dell'Italia. L'intervista sempre di Valeria De Rosa. C'è il trattato di conciliazione di regolamento giudiziario tra Italia e Brasile del 54 e quindi prima di andare alla Corte, tentativo di soluzione della controversia per via diplomatica. Se poi questo tentativo fallisce, ci si può fare affidamento ad una procedura di conciliazione, ma non è obbligatorio. Dopodiché, se anche la conciliazione non sorte effetto, a questo punto si apre il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, che non è semplice perché non è automatico, in quanto che i due stati si devono trovare d'accordo per definire l'oggetto della controversia, che l'oggetto della controversia, visto da un terzo, è chiaro, violazione del trattato di estradizione, se il Brasile aveva l'obbligo di estradare questo individuo all'Italia, però visto dall'altra parte, ovviamente l'altra parte può frapporre ostacoli. Dopodiché, se si riesce a concludere questo compromesso, si va dinanzi alla Corte. Ecco, qua il discorso è molto complicato, perché la Corte potrebbe decidere in senso favorevole all'Italia, supporre che lo faccia in questi termini, che il Brasile ha violato il trattato di estradizione. Punto e basta. Mi sembra difficile, quasi impossibile, che la Corte possa ingiungere al Brasile di estradare Battisti in Italia. Così dunque il professor Ronzitti sulla questione del caso Battisti che agita le relazioni tra Italia e Brasile. Adesso la politica, cominciamo con l'appuntamento della verifica di governo, si terrà il prossimo 22 giugno alla Camera il dibattito sulla verifica parlamentare chiesta dal Presidente della Repubblica Napolitano dopo l'ingresso di nuovi esponenti all'interno del governo. E ora il DDL anticorruzione, dopo la bocciatura di ieri, le novità di oggi: le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di contrasto alla corruzione sono attribuite a una commissione indipendente composta da 5 esperti nominati su proposta del ministro della pubblica amministrazione e anche di quello dell'attuazione del programma. E questo il punto centrale del nuovo articolo che il governo ha presentato al DDL anticorruzione dopo, come dicevamo, la bocciatura di ieri. All'articolo 1. E nel nostro paese l'iniziativa della Lega di raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare sul trasferimento dei ministeri al nord ha riaperto questo dibattito. Noi siamo andati a vedere come funziona in Germania, paese federale e paese che recentemente ha spostato, come sapete, la sua capitale. Quando Berlino divenne la capitale tedesca nel 1991, fu deciso che una parte dei ministeri sarebbe rimasta temporaneamente a Bonn, la vecchia capitale sul Reno. L'obiettivo era di consentire a Berlino di prepararsi ad accogliere una popolazione di funzionari pubblici e permettere una transizione morbida alla ex capitale. Oggi il governo federale sta valutando se e quando completare il trasloco. Alcuni ministeri hanno lasciato in città le loro dépendances. Qualche giorno fa il ministro della difesa, Thomas de Maizière, che ha ancora 3.000 dipendenti nella vecchia capitale, ha detto che la possibilità di un trasloco a breve termine non è tabù. La Germania, paese federale per eccellenza, ha distribuito su tutto il territorio nazionale molti enti pubblici, ma a 20 anni dall'unificazione sa in cuor suo che l'opzione della doppia capitale non può che essere provvisoria. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Ora parliamo di TV e politica che continuano ad intrecciarsi. Stasera infatti l'ultima puntata di Anno Zero sulla Rai per Michele Santoro, e invece domani torna in TV su Sky 1 Corrado Guzzanti con la sua satira che si annuncia come sempre graffiante. Il programma è stato presentato oggi. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno da Roma, dalla Casa del Cinema di Villa Borghese, un insieme di sketch per un totale di 10 personaggi interpretati da Corrado Guzzanti. Non c'è televisione né pubblico, ma un format nuovo studiato per Sky. L'appuntamento per Aniene, così si intitola infatti il nuovo programma di Corrado Guzzanti, è su Sky 1 domani alle 21.10. Non ci sono imitazioni di politici, anche se se ne parla molto. L'unico presente in audio è, sì, proprio lui, Scilipoti. Per il resto c'è l'imitazione del massone, di Aniene, personaggio tra mitologico e barbarico, di Antonello Venditti che canta l'esondazione dell'Aniene, che è appunto l'affluente del Tevere. Guzzanti critica anche quanto sta succedendo in Rai. Penso che faccia bene Santoro a risolvere questa controversia, dice Guzzanti, non si può essere nemico del tuo editore. Mentre su Rai 3 scappano tutti alla 7, ma dove andranno tante personalità così diverse? E sul rapporto tra il premier Berlusconi e il mondo della satira, Guzzanti dice: è un'illusione che esistiamo come contraltare di Berlusconi, noi esistiamo a prescindere. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato dell'allarme crescita di Confindustria, la produzione è ferma negli ultimi 8 mesi e l'Italia scivola dal 5° al 7° posto tra i paesi manifatturieri. E poi il caso Battisti, liberato l'ex terrorista dal Brasile, l'Italia esprime il rammarico con le massime autorità dello Stato napoletano, dice, lesi i rapporti di amicizia col Brasile. Il ministro degli esteri Frattini annuncia un ricorso all'AIA. Ora le altre notizie. E se ci sono, se c'è un'economia che è ferma negli ultimi 8 mesi, più 0,1%, denuncia Confindustria oggi con i suoi dati, c'è invece una parte dell'economia e comunque della produzione che non sembra vedere la crisi. In questo caso parliamo delle assicurazioni private. Oggi relazione annuale dell'ISVAP, il presidente Giannini ha parlato chiaro: crescita del 4,5% nel 2010, salita addirittura al 6% nei primi mesi di quest'anno. E poi Giannini denuncia anche che sui mutui e finanziamenti ci sono polizze abnormi da parte delle banche. Allora sentiamo l'intervista di Jacopo Matano al presidente dell'ISVAP. Evidentemente le compagnie, per anche superare le criticità dovute all'andamento tecnico, hanno agito prevalentemente o quasi esclusivamente sulla leva dei prezzi. Questo logicamente non è da noi considerata la strada da seguire. A dicembre abbiamo presentato a governo e Parlamento una serie di proposte per l'adozione di norme primarie che possano, diciamo così, contribuire alla soluzione del problema. È stata avviata la procedura sanzionatoria per elusione all'obbligo a contrarre. Sulla trasparenza e sul controllo sulle assicurazioni è stato emanato oggi un nuovo regolamento degli stipendi dei top manager. Che cosa prevede nel dettaglio? Non è previsto un tetto, sono previste delle linee di principio, che ci sia una parte variabile commisurata al rischio, ci sia la possibilità di recuperarla nell'eventualità che i risultati attesi non siano conseguiti. Un grosso ruolo è attribuito, contrariamente al passato, agli azionisti, all'organo di controllo interno. E ora parliamo di Fiat, perché mentre l'integrazione con Chrysler procede a grandi passi, abbiamo fatto la cronaca anche nei giorni scorsi, emergono i numeri di quello che è il nuovo gruppo che viene guidato da Sergio Marchionne, tra questi anche i debiti, e non sono pochi. Un documento anticipato da Radio Coro, Il Sole 24 Ore, parla di 6,3 miliardi di euro di debiti industriali. Il documento sviluppato anche dal Sole 24 Ore, è qua con noi Andrea Malan. Dobbiamo preoccuparci per questi numeri? Sì, buongiorno a tutti. I debiti di Fiat insieme a Chrysler sono indubbiamente molto più elevati di quelli che aveva la sola Fiat, ricordiamo, a fine 2010, circa 500 milioni di euro. La cosa era in parte nota, nel senso che Chrysler è più indebitata, il contributo di Chrysler a questi debiti è di poco meno di 4 miliardi di euro. La situazione esposta dal documento Fiat è in qualche misura artificiale, perché appunto riparte dai due bilanci a fine 2010. Vedremo a fine giugno, quando ci sarà, verranno resi noti a luglio i dati semestrali, come sarà stata l'evoluzione. Sicuramente aver assorbito una società molto più indebitata comporta un rischio rating per la Fiat. Non è un caso che già la settimana prossima il Lingotto potrebbe avviare un nuovo roadshow per emettere un altro bond sui mercati europei. E invece per quanto riguarda per esempio i debiti finanziari lordi, che anche questi sono molto alti, cifre che possono impressionare, però in questo caso invece si tratta di normale forse amministrazione per questo tipo di multinazionali, Andrea. Beh, diciamo che l'indicatore a cui guarda il mercato con più attenzione è sicuramente quello del debito netto industriale, che hai citato tu all'inizio, di 6,3 miliardi. Le agenzie di rating poi sicuramente guardano a una serie di fattori. Va ricordato che Chrysler, proprio a maggio, avendo restituito i debiti col tesoro americano e avendoli rinegoziati con le banche, otterrà un risparmio abbastanza consistente sull'onere per interessi annuo. Grazie allora ad Andrea Malan per questo approfondimento sulla situazione di Fiat. Adesso andiamo avanti con la cronaca, perché a Milano un 28enne è morto, la sua auto si è scontrata con quella di alcuni ladri che scappavano dalla polizia. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba. Due malviventi sono riusciti a scappare, altri due invece sono stati bloccati nella loro macchina, sono piantonati all'ospedale Sacco dalla polizia. Si tratta di minorenni nomadi che hanno detto di vivere nel campo di via Negrotto, non lontano da dove è avvenuto l'incidente. E ora il maltempo: due torrenti sono straripati nella notte in Liguria a causa delle forti piogge. I vigili del fuoco hanno fatto decine di interventi, molti i garage e gli scantinati allagati, le strade bloccate a causa anche degli alberi che sono caduti. Ma sentiamo come adesso la situazione nelle parole di Stefano Vergante, funzionario della Protezione Civile Ligure. Dunque adesso, dopo una nottata con due forti temporali che hanno impegnato il territorio, la situazione si sta normalizzando e quindi le piogge sono comunque diminuite, da qualche parte sta spuntando anche il sole. La situazione torrenti è tornata sotto controllo quindi? La situazione torrenti è tornata sotto controllo, ci sono state delle esondazioni piuttosto contenute, moderate, che però ci hanno un pochino preoccupato nella prima mattinata. Stiamo comunque facendo le verifiche sui danni e sulle situazioni di pericolo che sono create, ma direi che sono tutte molto contenute. E anche se fa contrasto con gli allagamenti della Liguria e anche di altre zone d'Italia, come per esempio le Marche, dunque il tempo che è brutto, molto brutto in queste ore, parliamo del guida blu di Legambiente Touring Club Italiano, cioè insomma il giudizio sulle spiagge, sui mari italiani, presentato oggi a Roma, l'undicesima edizione. Le cinque vele sono andate a 14 località, prima tra tutte regina di quest'estate, dunque ancora Pollica in provincia di Salerno, insieme alla cittadina campana, la Sardegna con Villa Simius, Posada, Bosa e Baunei, e anche la Basilicata che entra per la prima volta nell'Olimpo con Maratea, mentre ne esce la Liguria, dove le Cinque Terre quest'anno si fermano a sole 4 vele. Ma che cosa fa la differenza nella valutazione della guida blu? Lo ha spiegato Sebastiano Venneri, vicepresidente responsabile mare di Legambiente, al microfono di Adriana Fracchia. C'è un fattore di base che è la qualità del territorio. A questo ovviamente si aggiunge la buona amministrazione e le iniziative che queste amministrazioni fanno per tutelare, proteggere, promuovere questo territorio. C'è da dire che c'è poco ricambio al vertice, perché chi conquista le cinque vele nel corso degli anni tende a mantenerle, tende a fare una politica che passa anche attraverso diverse maggioranze di colori differenti dal punto di vista politico, e questo secondo noi è un fattore di successo e un segnale incoraggiante, perché ci dice che tanti amministratori hanno capito che si può fare, si deve fare turismo battendo sulla qualità e sull'ambiente. E ora parliamo di calcio scommesse, ma non tanto delle inchieste, di come Federcalcio e il governo vogliono reagire studiando come inasprire le pene e i controlli sui flussi di scommesse. Per quanto riguarda l'esecutivo, allo studio un pacchetto di emendamenti al disegno di legge sviluppo, ma il paradosso è questo: alcune delle misure ipotizzate già sono in vigore in Italia, lo spiega chiaramente Massimo Passamonti, responsabile area giochi Confindustria, al microfono di Dario Ricci. Esistono già dei limiti sia per quanto riguarda la possibilità del giocatore di appunto puntare una certa cifra, oltre la quale 1000 euro è necessario registrarsi, e anche per le vincite oltre 1000 euro è necessario lasciare i dati presso il punto di accettazione della scommessa. In più dei limiti ci sono già per singolo biglietto, il singolo biglietto non può essere vincente per più di 10.000 euro, e comunque una misura del genere sarebbe il più grande regalo da fare alle scommesse illegali, perché evidentemente poi il gioco si trasferirebbe da quelle parti. Altra misura prevista: l'obbligo di segnalazione del giro delle giocate ai monopoli dello Stato. Ora, di fatto tutti i concessionari legali, diciamo così, questo obbligo già ce l'hanno. Non solo ce l'hanno e lo assolvono sempre, anche questa vicenda ultima incresciosa del calcio scommesse attuale è una vicenda che nasce da segnalazioni fatte dai concessionari nel corso dei mesi dell'anno passato ai monopoli. I monopoli hanno puntualmente segnalato alla Procura federale le partite sulle quali si verificavano scommesse anomale. Io continuo e approfitto per ripetere che il problema è la rete presente in Italia delle agenzie non autorizzate, quindi di chi non è concessionario, in cui tutti questi obblighi di registrazione e di trasparenza non sono vigenti per chi accetta scommesse, quindi potenzialmente un danno sia per il sistema sia per lo scommettitore. Terzo punto, quello forse più clamoroso: la possibilità che i monopoli avrebbero, in seguito alla segnalazione del giro delle giocate, addirittura di sospendere una partita qualora si concentrassero su di essa quote anomale. Mi sembra assai difficile, anche perché voglio immaginare una partita all'Olimpico, allo stadio di San Siro, con 70-80.000 persone. Il problema del rimborso del biglietto non ho capito chi poi se lo dovrà caricare. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Filippo Aureggi in regia. Vi lasciano al resto della giornata su Radio 24. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.